24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 7 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, Maria Latella, eccoci, ciao. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Molti saranno in viaggio e chissà se qualcuno ci sta sentendo mentre sta in treno, perché di treni che... Vorrei cominciare a parlare con te. Sì, sì, ne parliamo tra un attimo della TAV, di quello che pubblica oggi il Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato prima. Intanto fammi dire che ci possono raggiungere al 349-238-6666 via SMS, messaggi su WhatsApp, anche audio. E anzi, soprattutto audio, e l'800240024 per intervenire in diretta. Tra l'altro, tra poco torneremo a parlare di immigrazione. Ieri, come sapete, lo sbarco della Ocean Viking, e adesso si torna a parlare di un'ipotesi di sanatoria. Metteremo a confronto, come sempre, due opinioni. Prima però, Maria, sì, di parlare di questa indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che la mette in apertura, sull'alta velocità, un'indagine della Federico II di Napoli che racconta come le città raggiunte dalla TAV abbiano un PIL in crescita, molto più in crescita di quelle che non ce l'hanno. Prima di partire da là, ti voglio far sentire un audio. È un audio che arriva da ieri, è un audio di proteste. Vediamo se ce l'abbiamo. Carmelo, vai. Parla bene. Facciamo Perché, cara Maria, parliamo certamente di TAV, parliamo di dossier, parliamo anche di questo, parliamo di lavoro, parliamo del caso Whirlpool. Si pensava che fosse risolto e invece risolto non è. Come spiega molto bene l'apertura del Sole 24 Ore, dove c'è la TAV, il prodotto interno lordo cresce del 7-8% in più. Le infrastrutture, la possibilità di collegare territori in maniera efficace sono la chiave di volta per farli rendere più appetibili per tante aziende, oltre ad altri elementi. Ora, il caso Whirlpool è un caso molto serio al quale magari un giorno dedicheremo anche un approfondimento qui. Però la questione è che... o ci concentriamo sulle infrastrutture in questo paese rendendole efficaci, oppure ritorneremo tutte le volte a piangere sulle nostre disgrazie. Io ricordo peraltro che durante la stagione del Mauro Moretti alle Ferrovie dello Stato, c'era una cultura di impresa delle ferrovie che era fattiva, concreta, essenziale. Mi pare che si possa guardare a quella stagione, a quell'esempio, anche in altre realtà aziendali, perché l'azienda Italia deve avere una coscienza nazionale, sì, un senso di comunità. E fammi dire un'altra cosa. Prego, c'è il problema dei trasporti locali. Tanti nostri ascoltatori ci possono dire: bene, ma l'alta velocità collega sostanzialmente Milano, Torino, Roma e Napoli, tutto il resto del paese è tagliato fuori. Esatto, infatti la neoeletta Iole Santelli mi ha confortato che come prima dichiarazione abbia detto: adesso voglio l'alta velocità in Calabria. Totalmente d'accordo. Il problema è che il trasporto locale su rotaia fondamentale è un problema di costi. O si paga con il biglietto, ma non lo puoi alzare più di tanto, oppure lo dovrebbe finanziare lo Stato, che però non lo fa, perché poi sennò si trasforma in debito o in tasse. Quindi c'è una grande domanda che mi piacerebbe porre a qualcuno: è trasporti, infrastrutture, il trasporto su rotaia localmente è fondamentale, chi lo paga? Fammi un po' allargare il campo però rispetto a questo ragionamento. Carmelo Lauricella, ce l'hai la voce di Nicola Zingaretti? Sentiamolo, va. Noi vogliamo costruire un campo largo con le persone, con le italiane e gli italiani, fatto di una nuova generazione di imprenditori, artigiani, lavoratori, precari, associazioni, sindaci, amministratori, perché bisogna ripopolare un campo per costruire un'alternativa credibile a quella offerta dalle destre. E su questo stiamo lavorando, tutte e tutti con uno spirito nuovo e solidale, pensando innanzitutto all'Italia. Oh, fammi dire una cosa, con tutto il rispetto per Zingaretti, con tutto il rispetto per il travaglio interno che sta vivendo il Movimento 5 Stelle, il caso Whirlpool e questa vicenda della TAV, questa analisi sulla TAV ci dicono una cosa, che è il momento di pensare alle cose, per gentilezza. Tutti questi ragionamenti sul campo largo, le future alleanze, le regionali, che cosa faremo? Basta adesso, ok? Iniziamo a lavorare, per cortesia. Mentre invece ho l'impressione che la verifica di governo sarà una cosa, diciamo, piuttosto di superficie. Non si prenderà una decisione sulle 3-4 cose che sono sul tappeto, dalla prescrizione alla revoca delle concessioni, e però invece rinviare sarà un ennesimo messaggio non positivo. Decidano in un caso o nell'altro, e poi soprattutto decidano su quello che si deve fare su infrastrutture, occupazioni, occupazione, pensioni. L'altra sera, caro Simone, presentando il libro di Cottarelli insieme al ministro dell'economia Gualtieri, il libro di Cottarelli, Pachidermi e Pappagalli, punta a smentire una serie di luoghi comuni, lui le chiama bufale. Un luogo comune che smonta il libro di Cottarelli è che per far posto ai giovani, no, bisogna licenziare gli anziani. Perché lo smonta? Perché è una delle chiavi su cui per anni ci si è interrogati in questo paese, alla ricerca di un sistema per creare occupazione per i giovani. Bene, Cottarelli dice no, non è così. Perché non è che se tu togli anziano lì permettimi di dire una cosa, Maria, permettimi di dire una cosa. Ci si interroga in questo paese perché in questo paese non c'è, a volte, spesso nella classe politica non c'è cultura economica, perché non c'è un economista che ti dica che con l'uscita dei lavoratori anziani dal mercato del lavoro automaticamente entrino dei giovani. Non ci sono notizie, e la vicenda di quota 100 lo dimostra ampiamente, non c'è notizia in letteratura economica che un abbassamento dell'età pensionabile porti all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Per la semplice ragione che spesso, per esempio, un imprenditore vede uscire un dipendente per anzianità che va in pensione, eccetera, ma non lo rimpiazza. Il punto è, e qui torniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, all'Italia divisa in due, dove c'è la TAV, il PIL cresce del 7-8%. Se il lavoro non lo crei, cioè il lavoro lo devi creare per assumere i giovani. Questo è il punto. E per questo, giustamente dicevi tu, rivolgiamo da Radio 24 una supplica al governo. Fate, per favore, fate. Sì. Se preferisci chiamarla supplica, no, sì. Se preferisci supplica, chiamiamola supplica. Io non la chiamo supplica, dico fate, punto e basta. Oh, qualcuno ci dice: ma il precedente ministro del lavoro non aveva risolto la questione Whirlpool? Beh, bisogna dirlo, che noi abbiamo qua sotto una bella foto che aveva messo su Facebook Luigi Di Maio con il suo volto e con scritto: e siamo nel 2018, ce l'abbiamo fatta, accordo raggiunto con Whirlpool, rilocalizzazione, riportiamo il lavoro in Italia. Stop delocalizzazioni selvagge, aiutiamo i lavoratori con la cassa integrazione straordinaria, nessuno perderà il posto di lavoro. Fatto sta che ieri Whirlpool ha annunciato appunto che lo stabilimento di Napoli non è sostenibile, perde 20 milioni all'anno e quindi lo dovrà chiudere. Sarà anche interessante questo, fare anche un'analisi questo sui tanti posti di lavoro che sono stati perduti dopo che aziende e investimenti stranieri hanno tirato i remi in barca. Questo riguarda per esempio anche supermercati francesi che sono passati, per fortuna di nuovo inefficaci credo, mani italiane, e però con tagli ai dipendenti. Anche questo è un punto sul quale il governo deve fare una riflessione. Allora fermiamoci, va, una pausa, ci ritroviamo subito dopo e parleremo appunto di immigrazione. Mattino. Una piccola precisazione per gli ascoltatori, molti ci stanno scrivendo su questo tema, c'eravamo già tornati, forse lo ricorderete anche col presidente dell'INPS Pasquale Tridico, qualcuno ci dice com'è possibile che insomma tenendo al lavoro una persona più tempo insomma non si blocchi il lavoro dei giovani o mandandola in pensione prima non si liberi invece un posto per i giovani. Guardate, non sono solamente le analisi economiche che potete trovare abbastanza facilmente su internet, tra l'altro ce n'è una sul sito dell'Università Cattolica, della quale, no? Oppure leggere il libro di Cottarelli, della quale Cottarelli che guida il ma ci sono anche delle analisi empiriche, perché ricordatevi che tutti questi ragionamenti si fanno intorno al fatto che le cose sono avvenute, i paesi hanno alzato l'età pensionabile, non solamente noi, e riforme di questo genere sono state fatte, è stata in alcuni paesi, in alcuni casi abbassata l'età pensionabile e il risultato è stato opposto a quello che si, comunque, che si intuirebbe. Il punto è questa. Non sempre un posto di lavoro lasciato da chi va in pensione viene automaticamente rimpiazzato. In un paese a crescita ferma, e ce l'ha ricordato anche il Fondo Monetario Internazionale ieri, è più semplice, può accadere che quel posto di lavoro non venga proprio rimpiazzato. Ecco perché a monte bisogna crearlo il lavoro. Sì. Mettere le aziende nelle condizioni di creare lavoro, diciamo. Loro. Questo è, bisogna questo anche è che punto. Le aziende si mettano in condizioni pure loro. È reciproca la cosa. Però il problema è che se il lavoro non si crea, non possiamo pensare che automaticamente chi va in pensione lasci il posto a un giovane. Non sempre, talvolta succede, a volte no. Allora, l'immigrazione. Ieri lo sbarco delle Ocean Viking con altre 400 persone a bordo. La situazione in Libia che si fa e continua a farsi sempre più tesa, con una tregua che, come sappiamo, è solamente presunta. Stanno volando in queste ore le accuse a Erdogan di aver continuato a fornire armi al governo di Tripoli e quindi la gente scappa, ricominciano le partenze. C'è una riflessione più generale sul tema che ha a che fare anche con i decreti sicurezza e su come questa maggioranza li vuole cambiare. Ne parliamo con due ospiti. Ellie Schlein, che è stata eurodeputata dal 2014 al 2019 e regina delle preferenze in Emilia Romagna in questa tornata elettorale con 22.000 voti. Schlein, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, bentrovati. Nicola Molteni, deputato della Lega, ex sottosegretario all'interno, buongiorno anche a lei, Molteni. Buongiorno a voi. Maria, prego. Eccoci. Allora, Schlein, lei è diventata più popolare, almeno nel contesto emiliano, quando avviò l'esperienza di Occupy PD, nata per protestare contro i 101 che avevano affossato l'elezione di Prodi al Quirinale. Prima di chiederle se ha capito chi fosse quei 101, se si è fatta un'idea, le voglio fare la domanda che riguarda l'immigrazione, tema dal quale c'entriamo, però ci rifletta su chi sono stati i 101 che hanno affossato Prodi, magari alla fine della chiacchierata ce lo dice. Allora, la riflessione che facciamo è che a gennaio di quest'anno sono arrivati nel nostro paese, dati del ministro dell'interno, 870 migranti. Se si aggiungono i 407 della Ocean Viking si arriva a 1207. Negli stessi primi 29 giorni dell'anno scorso erano stati 155. Lei come se lo spiega? È stato l'effetto della stagione del ministro Salvini al Ministero dell'Interno a ridurre gli arrivi, perché appunto nei primi 29 giorni dell'anno scorso erano 155 e invece quest'anno sono 1207. Guardi, io penso che ci sono delle ricerche molto interessanti che dimostrano che al di là di tanta propaganda che è stata fatta su questo tema, questi sono dati più del Ministero del Viminale, sì. Sono dati ufficiali del Ministero, non sono propaganda. Non intendevo la propaganda sua, dicevo al di là della propaganda che è stata fatta in questi anni, e mica solo in Italia, si ricorda forse anche il Premier Cameron che diceva le stesse cose, molto più dei cosiddetti pull factor, contano i push factor, mi spiego in italiano, Conta molto di più la situazione sul campo, che è diventata estremamente complessa proprio in queste settimane. L'avete ricordato in apertura, la situazione in Libia si sta riscaldando nuovamente. Ecco, credo che conti molto più questo. Matteo Villa fa delle ricerche interessanti anche, che non appunto quello che succede da questa parte del Mediterraneo, compresa la eventuale presenza o meno di navi. Ricordiamo, in questo momento ci sono, è ridottissima la presenza di navi, di organizzazioni non governative o di altro tipo di missioni. In passato c'era stata 1207 immigrati arrivati a gennaio di quest'anno contro 155 negli stessi primi 29 giorni. Questi sono i dati. Su questo le chiedo una risposta a Elie Schlein. Sì, no, appunto, le dicevo questo. Non credo che la differenza sia data dal differente governo che abbiamo in Italia. Credo che la situazione più calda in Libia sia parte della spiegazione di questo dato. Dopodiché le dico pure che il problema vero non è quanti ne arrivano in Italia, ma se finalmente riusciremo a cambiare le norme ingiuste a livello europeo che fanno sì che le persone che arrivano non vengano poi redistribuite adeguatamente secondo un meccanismo permanente automatico di ricollocamento come quello che noi abbiamo approvato a Bruxelles sulla riforma di Dublino. Molteni, immagino che la sua visione sia opposta, no? Ma sì, innanzitutto mi lasci dire che il tema dell'immigrazione non è un tema di propaganda, il tema dell'immigrazione è un tema reale, è un tema globale, è un tema complesso, è un tema rispetto al quale oggi i singoli stati membri decidono di fronteggiare e di contrastare l'immigrazione irregolare e clandestina semplicemente perché non c'è stata e non c'è una risposta globale al fenomeno dell'immigrazione. Cioè, chi avrebbe dovuto dare, e penso agli organismi internazionali da un lato o penso all'Europa dall'altro lato, che avrebbero dovuto dare risposte europee o risposte globali a un fenomeno globale, non le hanno date ed evidentemente i singoli stati decidono di attrezzarsi nel modo migliore possibile. La Francia chiudendo le frontiere e sospendendo Schengen, idem fa l'Austria, idem fa la Germania. L'Italia, finché al Ministero dell'Interno c'era un ministro serio e responsabile, difende confini e frontiere. Nel momento in cui cambia ministro, cambia compagine governativa, evidentemente le porte dell'Italia tornano ad essere aperte. Io sottolineo un altro fatto, non solo contesti europei, ma anche il fatto che l'Italia, secondo me, sbagliando enormemente, ha riaperto, ad esempio, il negoziato, il cosiddetto memorandum con la Libia. Guardia costiera libica finanziata dall'Italia, finanziata dalle istituzioni europee, dando mezzi, dando finanziamenti, dando formazione, dando la possibilità alla Guardia costiera libica di poter svolgere il contrasto all'immigrazione clandestina all'attività degli scafisti e rimettere in discussione, come ha fatto il governo italiano, il memorandum libico evidentemente ha portato e sta portando l'Italia nuovamente ad essere centro d'accoglienza d'Europa. Il sistema dei ricollocamenti e della distribuzione europea evidentemente non funziona perché i numeri sono numeri bassissimi e io credo che il fatto di rimettere ad esempio in discussione i decreti sicurezza di Matteo Salvini per fare un torto a Salvini, quando poi alla fine si rischia di fare un torto al paese italiano, evidentemente fa sì che l'Italia torni ad essere un paese attrattivo rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Lo dico sempre, chi scappa dalle guerre, chi scappa dalle torture e dalle persecuzioni per leggi e convenzioni internazionali deve essere accolto e deve essere accolto in Italia e in Europa, però evidentemente, siccome sappiamo che l'80% di chi arriva in Italia non scappa da guerre e da persecuzioni, non lo dice la Lega, lo dice il Ministero dell'Interno e le commissioni territoriali che analizzano le domande d'asilo, non stiamo parlando di migranti politici, ma stiamo parlando di migranti economici, quindi di migranti irregolari, e io credo che uno Stato serio i confini delle forze le debba difendere. Allora, il tema tra l'altro è, mi sembra un po' più largo, Schlein, vorrei coinvolgerla perché tiene dentro innanzitutto, come dicevamo, quelle che la maggioranza prospetta essere delle modifiche al decreto sicurezza da una parte e dall'altra parte il ragionamento, ne abbiamo trovato di nuovo traccia oggi sulla stampa ma è qualche settimana che se ne parla, il ragionamento su un'ipotesi di una sanatoria, cioè ci sono centinaia di migliaia di persone che sono irregolarmente nel nostro paese, che espellere è difficile se non quasi impossibile in alcuni casi perché bisogna prendere accordi con i singoli paesi, è una cosa molto complessa e molti di questi hanno un lavoro, per quanto ovviamente essendo irregolari un lavoro in nero. Da questo punto di vista come la vede? Vedo che ho un'opinione chiaramente diversa sui decreti sicurezza rispetto a quella di Molteni. Credo che serva un approccio complessivo. L'immigrazione è un fenomeno complesso che richiede risposte di breve, di media e di lunga durata a tutti i livelli. Se a livello europeo è necessario appunto riformare quella norma ingiusta che è il regolamento di Dublino, che ha bloccato migliaia di richiedenti asilo in Italia per il solo fatto di essere entrati in Europa dall'Italia, ed è quello che abbiamo provato a fare, ma purtroppo la riforma è bloccata in consiglio da alcuni governi, faccio per dire il governo ungherese, i paesi Visegrad, altri che si nascondono abilmente dietro a questi perché non vogliono cambiare una situazione che ha visto in questi anni. Siamo chiari, Schlein, altri sì. Che si nascondono dietro i paesi dell'est, cioè alcuni altri paesi nordici, tipo? Ma secondo me anche la Svezia non è che abbia molta voglia di cambiare le no, norme. No, perché se ne sono presi talmente tanti, hanno avuto talmente tanti negativi effetti anche nella loro vita, con un'altissima crescita del partito di estrema destra svedese, che ora sono giustamente cauti, no? Gli svedesi. Ma è giustamente, non credo. No, perché giustamente dal loro punto di vista, dico, Ma sa perché? L'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione dice una cosa chiara, dice che sull'asilo deve valere l'equa condivisione delle responsabilità. Questi dati purtroppo non sono negati da quello che è successo in questi anni, dove solo 6 paesi su 28 hanno affrontato l'80% circa delle richieste d'asilo arrivate. Questo è sbagliato. Se siamo un'Unione dobbiamo condividere le responsabilità che ne derivano e non soltanto i benefici come qualche paese vorrebbe. Io lo dico sempre, mi arrabbio certamente con Orban e con Salvini per le politiche che fanno, mi arrabbio ancora di più con Merkel e Macron, che avrebbero la forza insieme all'Italia di portare in consiglio e far votare a maggioranza qualificata la riforma di Dublino già approvata dal Parlamento europeo, che obbligherebbe tutti i paesi a fare la propria parte pro quota sull'accoglienza. Ma ecco, sul livello nazionale... Avete una straordinaria occasione, Eddie Schlein e Nicola Molteni, per farci capire brevemente perché l'Italia in tutti questi anni non è stata capace di convincere, giustamente Eddie Schlein citava la Germania, che pure ha ottimi rapporti con noi, di convincere l'Europa tutta che l'Italia non può essere ancora legata al Trattato di Dublino, non può essere il paese di prima accoglienza che poi si tiene questi migranti. Ricordo che Emma Bonino, 3 anni fa, disse che il re era nudo, cioè disse che il governo Renzi aveva di fatto accettato di tenersi i migranti in cambio di un sforamento sui dati della nostra manovra, quindi un po' più di elasticità sui nostri conti e in cambio ci tenevamo i migranti. Ci fate capire, lo chiedo a Molteni e poi alla Schlein, perché non siamo riusciti a cambiare le cose? Evidentemente, ma da un lato perché c'è stato un governo in modo particolare dal 2012 al 2017 che ha totalmente svenduto la sovranità e la dignità del nostro paese sul fronte immigrazione per qualche 0, punto in più di flessibilità sui bilanci. Dopodiché credo che sia assolutamente evidente che il regolamento di Dublino che nasce, qui stiamo parlando di Dublino 3, Dublino 1 nasce nel 90, poi viene modificato nel 2002 quando la gestione dei flussi migratori evidentemente non era di questa portata, e credo che andasse bene a qualunque paese europeo che vi fossero alcuni paesi, penso paesi che si affacciano sul Mediterraneo, all'Italia, ma anche alla Spagna, alla Grecia, a Cipro e a Malta, che si facessero carico di questo fenomeno. Evidentemente così non può essere e non può più continuare ad essere, soprattutto laddove i flussi migratori, in modo particolare dal Mediterraneo centrale, pensiamo alla Libia, ma non solo dalla Libia, in Italia sbarcano tantissimi immigrati che provengono dalla Tunisia e dall'Algeria, che non sono paesi in guerra, rispetto ai quali le procedure di rimpatrio potrebbero essere fatte anche in maniera particolarmente accelerate. Dico anche che non è soltanto una ritrosia da parte dei paesi di Visegrad, perché ad esempio sul sistema delle relocation che venne attuato nel 2015, l'Italia avrebbe dovuto ricollocare siriani ed eritrei, quindi quindi profughi veri, li avrebbe dovuti ricollocare in Europa per circa 20.000, la disponibilità non solo dei paesi di Visegrad, ma giustamente, come avete ricordato, anche dei paesi del nord, ma anche ad esempio penso all'Olanda, penso all'Austria, penso quindi ai paesi dell'Europa, al Belgio, ai paesi dell'Europa centrale, evidentemente non hanno tutta questa grande disponibilità. Non hanno questa grande disponibilità perché manca in Europa, e io credo che ci sia una grande responsabilità delle istituzioni europee da questo punto di vista, manca ad esempio una politica comune sui rimpatri, manca ad esempio una politica comune di cooperazione nei paesi dell'Africa, manca una politica comune sul diritto d'accoglienza, manca la consapevolezza da parte dell'Europa che un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione deve essere gestito con delle sovrastrutture istituzionali. Quindi cosa è successo? È successo che ogni singolo Stato nazionale, io ripeto giustamente, ha tentato di difendere le proprie frontiere. Ripeto, a Ventimiglia non c'è un muro materiale, ma c'è un muro umano, perché la Francia ha deciso di sospendere Schengen. Negli ultimi 5 anni ci sono stati 50.000 respingimenti nel territorio nazionale. La gendarmeria francese ha più volte sconfinato abbandonando minori stranieri nel territorio nazionale. Stessa cosa ha fatto la Germania, stessa cosa fanno tutti i paesi che hanno delle frontiere terrestri. L'Italia cosa ha fatto? E io rivendico orgogliosamente i decreti di sicurezza. L'Italia ha semplicemente, avendo soprattutto delle frontiere marittime, ha difeso, contrastando l'attività di scafisti e trafficanti di esseri umani, un fenomeno che ha visto l'Italia. Voglio ricordare che dal 2012 al 2017 sbarcano in Italia 700.000 migranti. E la grande responsabilità della sinistra è stata quella, duplice, non solo di aver aperto le porte a 700.000 immigrati irregolari che evidentemente andavano gestiti, ma soprattutto di non aver avviato delle politiche di integrazione nei confronti di quasi 700.000, perché gran parte degli invisibili e dei fantasmi presenti sul territorio nazionale sono frutti di quelle politiche totalmente sbagliate e di assoluta non gestione di un flusso migratorio. Allora Molteni, facciamo rispondere Schlein, però dopo una piccola pausa. Mattino. Che cosa c'entra la situazione in Libia? Questa è gente, sono immigrati che vengono dalle aree subsahariane, quindi una volta che arrivano in Libia partono, anzi la situazione complicata adesso della Libia rende ancora più difficili le partenze. Certo che attaccarsi alla situazione in Libia è veramente squallido, eh. Ma secondo voi un nigeriano che decide di recarsi in Libia dove sa che c'è una situazione critica e poi pretende di venire in Italia perché scappa dalla guerra, ha un senso logico? Eh vabbè, però Elie Schlein ce l'hanno con lei, però son già là questi che partono, a prescindere da dove provengano, son già là in Libia. Sì, sono già lì, migliaia di persone. Forza. Peraltro sono bloccate in questi centri di detenzione per migranti dove, secondo i dati dell'ONU, ci sono violenze e torture quotidiane, quindi tenderei meno alle semplificazioni su quello che sta accadendo in quel paese, che è molto grave. Detto questo, appunto, c'è un diritto garantito dai trattati internazionali, così come dalla nostra Costituzione, a chiedere la protezione internazionale. Il tema è come assicurarlo, condividendo equamente le responsabilità. Su quanto diceva Molteni c'è un pezzo di storia che però non ha raccontato. La Lega era già al governo con Berlusconi nel 2003, quando il regolamento di Dublino fu approvato nella sua prima versione, che già conteneva l'ipocrita criterio del primo paese di accesso che ha bloccato migliaia di persone in Italia. Forse sono stati disattenti su quel tavolo dove invece bisognava far valere un'idea diversa. Elie Schlein, ci faccia capire che cosa farebbe lei ora per dare forza alla richiesta italiana di condivisione che giustamente proprio lei ha messo in luce come sia stata disattesa finora. Perché se noi continuiamo a guardare al passato e a dire però c'eravate anche voi e non l'avete fatto, che è una tecnica che sento utilizzare da tutti i politici da anni, non ne usciamo. Allora guardiamo al presente e all'immediato futuro. Lei che ha competenza su questo tema, che cosa suggerisce che l'Italia possa fare per avere più peso nella redistribuzione, peso che non abbiamo avuto finora? C'è stato un incontro a Malta con alcuni governi, quello maltese, quello francese e quello tedesco. Si è parlato purtroppo di nuovo di soluzioni di ricollocamento volontario che nell'esperienza di questi anni non hanno mai funzionato e mai portato risultati. Siccome il Parlamento europeo, insisto, a maggioranza di 2/3 ha già approvato un meccanismo di ricollocamento obbligatorio che valorizza i legami delle persone che arrivano coi vari paesi europei, ma soprattutto obbliga tutti i paesi europei a fare la propria parte sull'accoglienza, c'è una risposta semplice. Italia, Francia, Germania e Malta, se davvero è reale questa nuova volontà politica di trovare una soluzione europea, portino quella riforma sul tavolo del Consiglio e cerchino di costruire, come solo loro sarebbero in grado di fare, una maggioranza qualificata per approvarla. Poi c'è un altro tema, avete toccato la vicenda nazionale. Cosa farei oggi sul tema nazionale? Allora, i decreti di sicurezza non hanno prodotto maggiore sicurezza. Attenzione, prima si citava un dato sbagliato, l'80% che non sarebbero titolati a richiedere la protezione internazionale, è facile dirlo dopo che è stata, diciamo, abrogata o comunque ristretta molto la protezione umanitaria che discendeva direttamente dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Farei molta attenzione da questo punto di vista, perché chi aveva la protezione umanitaria prima dei decreti sicurezza comunque aveva dei motivi, cioè diciamo la ragione per cui veniva data è che c'era un rischio effettivo di danni alla persona nel caso di ritorno del paese di origine. Quindi ecco, sarei meno lapidare anche su questo. Che cosa farei? Cambierei la Bossi-Fini, perché anche lì non è che si vuole andare a vedere nel passato, però la firma sulle peggiori leggi di gestione dell'immigrazione è sempre della Lega. La legge Bossi-Fini dice che l'unico modo per migrare regolarmente in Italia è che uno parta dal Mali con un contratto in tasca. Ma quando mai? Siamo quelli che l'hanno fatta all'italiana con le sanatorie progressive e le file davanti alla posta. Non è una gestione razionale, efficiente, lungimirante e rispettosa dei diritti quella proposta da una legge criminogena che ha creato irregolarità per poi candidarsi di volta in volta a governare il caos che hanno creato loro. Quindi perché non inserire dei permessi di soggiorno per ricerca di lavoro regolati, dando un tempo congruo per cercare, diciamo, una opportunità di lavoro? Questo risolverebbe il tema di sapere chi c'è sul nostro territorio in modo sicuro, evitando la ricattabilità. E chiudo, cancelliamo i decreti sicurezza, perché secondo me interverrà anche la Corte Costituzionale su quella parte che cancella, diciamo, la protezione umanitaria, ma il primo è ancora più grave perché cerca di smantellare l'unico sistema di buona accoglienza, che è quella diffusa nel territorio con piccole soluzioni abitative con adeguati servizi di inserimento sociale. Su questa ragione Molteni, bisogna lavorare molto di più sull'inserimento sociale delle persone una volta che sono arrivate sul nostro territorio. Molto brevemente, è una domanda, inizio da lei Schlein perché sta già parlando e poi vado a Molteni, e veramente molto rapidamente siamo quasi in chiusura. E dal ragionamento che ci faceva mi sembra che l'idea sia un po' tornare ai flussi, ai decreti flussi che sono stati quasi sostanzialmente svuotati in questi anni, e quindi dire quest'anno abbiamo bisogno, la dico brutale, sono quei decreti che dicono quest'anno abbiamo bisogno di 100.000 persone, no, che possono entrare nel nostro paese con un regolare contratto di lavoro, più o meno questo è il concetto, no? Sì, è parte di quella riforma complessiva, dicevo, con risposte di medio, di lungo termine e di breve termine, certo, perché abbiamo bloccato i flussi, cioè questi decreti flussi per 8 anni, ricordiamo che non ci sono stati. È chiaro che così c'è un caos, e non solo, perché l'irregolarità rende le persone ricattabili e crea delle conseguenze negative anche nel mondo del lavoro, l'abbiamo visto. È un problema a cui guardare in faccia, non va negato, ma vanno date delle soluzioni pragmatiche e molto più efficaci. Mi sembra Molteni, pragmatica la Schlein, ma sentiamo pure Molteni, ci si può ragionare sulla questione dei decreti flussi? Ma scusi, guardi, i decreti flussi ci sono. Il problema è, in modo particolare per alcune categorie lavorative, penso ad esempio agli stagionali o ai lavori occasionali. Sui decreti flussi noi ogni anno nemmeno riusciamo a coprire tutte le quote di circa 30.000 permessi che vengono messi a disposizione per motivi di lavoro. Dopodiché però il problema secondo me è un altro. Primo è l'ipocrisia di chi dice la legge Bossi-Fini non va bene, dopodiché però la legge Bossi-Fini è del 2002, siamo nel 2020, la sinistra ha governato per 2 anni il paese e non li ha mai cambiati. Perché? Perché il tema dell'immigrazione è evidentemente un tema che sposta consensi. Io invece rivendico la legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini cosa dice? Dice che chi viene in Italia deve avere un lavoro, un permesso, evidentemente, un reddito, una casa, e deve sapersi mantenere. Voi pensate in un paese come il nostro, con 3 milioni di disoccupati, che cerchiamo di attrarre occupazione straniera? No, noi dobbiamo dare, salvaguardare il lavoro dei cittadini italiani. La modifica dei decreti di sicurezza, di cui se ne parla, ma la sinistra non ha ancora avuto il coraggio di cambiare una virgola, decreti che hanno superato tutti i vagli di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, non c'è un pezzo del decreto di sicurezza che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, vuol dire che è stato fatto un lavoro anche da un punto di vista giuridico opportuno. La modifica dei decreti di sicurezza, che sino ad oggi non è stata fatta, è semplicemente il cavallo di Troia per modificare la legge dei Bossi-Fini, cioè sanatorie, regolarizzazioni, circa 1 milione di immigrati irregolari, cancellazione del reato di immigrazione clandestina, riproporre lo sponsor e soprattutto, io credo assolutamente drammatico, i permessi per ricercare lavoro in Italia. 5 milioni di immigrati che vengono in Italia a cercare lavoro. Quella rischia di essere veramente sicura. Ma dove sono questi dati, Molteni? Vedremo. Insomma, sì, 5 milioni mi sembra un cifrone, Molteni, in tutta sincerità. Ecco, dobbiamo veramente chiudere. Nicola Molteni, grazie della Lega e Lichline, grazie. Poi ce anche lo dice un'altra volta se sono in Parlamento ancora i 101 che hanno fregato Prodi, Lichline. Poi torneremo. La richiameremo. Maria, ci sentiamo domani, 8:20 come sempre. Ciao a tutti. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ine e Francesco Saraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.